Ma la tecnologia WiMAX consente varie cose, è una tecnologia radio innanzitutto, è una tecnologia radio che almeno credo nei suoi primi passi verrà utilizzata per portare servizi a larga banda, quindi servizi oggi dati con tecnologia DSL nelle case. E quindi il fatto che la tecnologia sia una tecnologia radio consentirà, come d'altra parte sta succedendo anche in svariati altri paesi europei, di portare il broadband laddove oggi con il rame, con i cavi, abbiamo qualche difficoltà, quindi in zone particolarmente impervie o con linee lunghe, e quindi per colmare quello che viene chiamato il digital divide, quindi la possibilità di una serie di comuni più remoti di essere serviti da tecnologie broadband che sono partite dai grandi centri. Voi avete già fatto un'ipotesi sulla copertura del territorio dove non esiste la possibilità di portare la DSL? In prima battuta sì, questa sarà la prima area sulla quale siamo già impegnati con le tecnologie che abbiamo oggi sostanzialmente, quindi noi siamo impegnati in un progetto di Digital Divide con il Ministero delle Comunicazioni, con le regioni, stiamo facendo una serie di accordi per estendere e portare la copertura broadband in prospettiva a tutto il territorio. Noi oggi abbiamo circa 500.000 di clienti che sono attestati su delle linee telefoniche più lunghe di 3,5 km, sulle quali effettivamente la qualità del servizio broadband che si riesce a dare con le tecnologie attuali è bassa, quindi le prime aree di intervento saranno quelle, sono questo tipo di interventi qua.